Stamattina erano un po' titubanti perché avevano iniziato in ritardo, però non se n'è accorto nessuno. È andato tutto perfettamente bene. Cambiare si può, cambiare si deve. E questa mattina cercheremo di capire, riguardo al cambiare, chi, quando, come e perché cambiare. E andremo a vedere in maniera specifica nel capitolo 12, nel versetto 1 della lettera ai Romani. E il capitolo 12 inizia proprio con un invito al cambiamento. Come te, cioè Paolo qua stava dicendo ai Romani, come Gesù, come lui. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questo getta luce anche in quello che stiamo facendo stamattina. Non è questo il culto. Questa è la celebrazione che abbiamo per il Signore. Questo è un momento in cui veniamo assieme per dare a Lui la lode, per riconoscerlo, per permettere a Lui di gustarci come Chiesa. Ma il nostro culto è ogni giorno presentarci a Lui come sacrificio, in una perfetta e gradita volontà. Oggi ci occuperemo solo di una piccola parte di questi versi. In pratica vedremo solo: vi esorto dunque, fratelli, e basta. Poi il resto, poi qualche altra volta lo facciamo. Io voglio fare una premessa riguardo a questa lettera ai Romani. L'Apostolo Paolo l'ha scritta nel 59-58 dopo Cristo, però lui stesso non era mai stato a Roma, mentre nelle altre, in Efeso, a Filippi, c'era stato, lo conoscevano. Qui a Roma non lo conosceva nessuno, se non per la fama. E questa chiesa era stata fondata da qualcuno che aveva partecipato alla Pentecoste che è descritta in Atti al capitolo 2. Vi ricordate quando c'è stata l'effusione dello Spirito Santo, la predicazione di Pietro? Beh, di tutte quelle persone che venivano da ogni parte del mondo, c'era qualcuno che veniva da Roma, che quando è ritornato a casa ha pensato bene di fondare una chiesa. Quello che è successo è che l'imperatore romano Claudio ha pensato bene di cacciar via da Roma tutti i giudei. Non so perché, già da allora stavano antipatici, però ha pensato di cacciarli via e li ha riammessi nella città solo dopo 5 anni. E questo è qualcosa di che ha causato qualcosa di molto particolare, perché quando i giudei sono andati via e sono ritornati poi a Roma nella loro chiesa, hanno trovato una chiesa diversa, hanno trovato una chiesa che aveva cambiato gli usi e i costumi, se possiamo dire così, e lì era nata qualche discussione riguardo alla circoncisione, riguardo ai cibi che si dovevano mangiare o meno, riguardo a tutte le tradizioni che i giudei avevano portato con sé nella chiesa. E quindi Paolo si è messo d'impegno per scrivere questa lettera ai Romani per difendere l'unità della Chiesa. Lui in effetti pensava che Roma poi potesse essere una base per lui per arrivare in Spagna. Quindi c'era un doppio fine, se vogliamo, a questo. Però il problema sussisteva: la Chiesa si stava dividendo a causa delle tradizioni che veniva da quello che era la cultura del Vecchio Testamento. E Gesù stesso ha affrontato questo problema in Matteo al capitolo 5, in pochissime battute. Lui ha detto: non pensate che io sono venuto per abolire la legge, io sono venuto per completarla. E lì ha finito, dice: ma chi vuole intendere intenda. Paolo è stato un po' più prolisso nelle spiegazioni. Dal capitolo 1 al capitolo 11 della lettera ai Romani lui non fa altro che illustrare quello che Dio ha fatto attraverso la nascita, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù, dando un'attenzione particolare alla dottrina, cioè a tutto quello che era stato detto nel Vecchio Testamento. Per questo quando andate nell'Epistola ai Romani trovate tanti corsivi di riferimento al Vecchio Testamento, proprio perché lui stava cercando di dimostrare le verità del Nuovo Testamento, della nascita, della morte, della resurrezione di Gesù, in accordo con tutto quello che era la storia del Vecchio Testamento. E quindi parla della giustificazione, cioè parla di un sacco di cose, andatevelo a leggere. I primi 11 capitoli trattano di questa parte. Dal 12° in poi cambia totalmente il registro della lettera ai Romani. Se prima Paolo parla di quello che Dio ha fatto per noi, diciamo, per la sua Chiesa, da quel momento in poi parla di quello che si aspetta che la Chiesa faccia per lui. E in modo particolare in questo capitolo troviamo che lui parla di quello che è la nostra responsabilità verso di lui nell'ambito della Chiesa, come servi della Chiesa e con tutte le persone che sono fuori. Vi esorto dunque, lui inizia, vi esorto dunque, ma a chi è che sta parlando? È importante che noi capiamo a chi sono rivolte queste parole. Non sono rivolte a tutti. E lo capisci bene se vai a leggere il contesto nel quale vengono scritte e ti ricordi di tutto il percorso che ha fatto dall'inizio della lettera fino a quel punto. Lui ha iniziato questo percorso al capitolo 3, dove è scritto nel versetto 11: non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Guardate che Paolo ha sottolineato queste parole a una chiesa, quindi noi possiamo benissimo identificarci con questo, che non c'è nessun giusto, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che servi Dio, che lo cerchi. Tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratica la bontà, neppure uno. Però poi, per fortuna, è andato avanti nello scrivere la lettera, è arrivato al capitolo 6, al versetto 22, dove fa una bellissima proclamazione. Dice: ma ora, da quello che ho detto prima, fino ad adesso, ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Ecco che qui vediamo chiaramente tracciato il percorso da essere nemici di Dio, ostili a Lui, ad arrivare ad essere servi Suoi, ad arrivare a essere figli Suoi, liberati dal peccato e fatti servi di Dio. Sono delle parole estremamente, estremamente potenti. Fatemele illustrare con un'immagine. Il 10 giugno, la notte, mi sono svegliato, mo capita spesso, non per andare al bagno, ma mi sveglio, così nessuno si mette a ridere, va bene? E mi sono svegliato pensando al pianto di un bambino neonato. E avevo la registrazione sul telefono del pianto di Jacopo, mio nipote, quando è nato, appena nato. E l'ho rivista. E Gesù mi ha dato una rivelazione. Mi ha detto: vedi, i bambini quando nascono piangono. Ed è anche naturale che piangano. Cioè, un momento prima stanno belli, contenti, alla temperatura, all'umidità giusta. Un momento dopo si trovano a dover affrontare un percorso impervio, un percorso impervio, poi nascono e poi qualcuno li prende e li inizia a strofinare, a pulire, li schiaffeggia, cioè è chiaro che si mettono a piangere e urlano con tutta la forza che hanno in loro. Ma mentre piangono, succede qualcosa di un miracolo. Mentre piangono i bambini, nel loro primo pianto che fanno, si rendono conto che sono nati, si rendono conto che sono vivi, si rendono conto che hanno vinto. Allora noi non ce ne accorgiamo, ma quel pianto che all'inizio è di smarrimento, di che sta succedendo, diventa un pianto, perché è l'unico modo che hanno per esprimersi, di vittoria, di celebrazione, di liberazione, perché hanno vinto, sono vivi, sono nati. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Dal momento che noi siamo disposti a ricevere questo dono della vita eterna, succede qualcosa di meraviglioso, molto simile a quello che ho appena descritto. Il pianto che è dentro ogni uomo e ogni donna, che è dovuto al peccato e alla morte, ed è per ognuno di noi, perché abbiamo detto prima che non c'è neanche un giusto, neppure uno. Quando noi riceviamo questo dono della vita eterna, ci rendiamo conto che siamo vivi, ci rendiamo conto che siamo nati. E sapete che cosa succede da quel momento in poi? Che anche se la vita ci riserverà altri momenti di pianto, di sofferenza, di smarrimento, noi non saremo più costretti a piangere per il dolore, ma saremo spinti a piangere per la celebrazione, per la celebrazione, per la vittoria, perché Dio è nostro Padre. Perché noi siamo figli Suoi e Lui non ci perde di vista e Lui non viene mai sorpreso da quello che succede, perché è sovrano in ogni aspetto della nostra vita. Questa consapevolezza cambia il nostro pianto. E se non l'ha cambiato, significa che non sei consapevole, perché non puoi piangere di disperazione se sai che Dio è tuo Padre. Trova uno meglio di Lui per farti raccomandare. Trova uno meglio di Lui per risolvere la situazione che stai vivendo. Quando ti rendi conto di questo, che è vero, perché hai accettato quel dono, il tuo pianto, per qualsiasi motivo sia sul tuo viso, nell'animo tuo, diventa un pianto di celebrazione. Perché dice: Signore, io ti appartengo e tu mi appartieni. E la promessa, sapete qual è? Sempre in Romani Paolo l'ha scritta, ha detto: ma in tutte queste cose metteteci tutto quello che volete. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco a chi è rivolto, vi esorto dunque. Vi esorto dunque, rivolto alle persone che hanno sperimentato questo, che hanno abbracciato Gesù come Salvatore, come Signore della loro vita, e hanno capito che non hanno più bisogno di piangere per disperazione, ma hanno bisogno di piangere per celebrare, per celebrazione. Vi esorto dunque, stiamo sempre là, vi esorto dunque. Queste parole sono uno spartiacque, sia nella lettera ai Romani, tanto quanto lo sono e lo devono essere nella nostra vita. Nella nostra vita c'è uno spartiacque. Quando noi ci rendiamo conto di chi siamo e perché siamo quelli che siamo, è arrivato il momento che ascoltiamo: vi esorto dunque. Ma a fare che cosa? Lo vediamo dopo. Questo concetto di spartiacque, di momento cruciale, Paolo l'ha descritto così, sempre nell'Epistola ai Romani, un po' più in là, al capitolo 13. Ha detto, è questo dobbiamo fare. Quindi è questo dobbiamo fare, è il tempo presente. Quindi il quando è adesso. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale, cioè del vi è sorto dunque, è ormai ora che vi svegliate dal sonno. C'è un prima e c'è un dopo. Questo vi è sorto dunque. C'è un prima e un dopo. Il fatto che noi prendiamo questa consapevolezza. Io voglio descrivervi un momento cruciale. Non lo so per voi che cos'è un momento cruciale. Se in genere quel che nei film c'è la musica tutta, che tu stai lì a vedere, quello è il momento cruciale del film. Della vita mia un momento cruciale è stato quando ho detto sì, lo voglio. Quello è stato per me un momento cruciale. Perché da quel momento in poi la vita mia è cambiata. È un esempio solo. L'idea che io avevo di libertà è cambiata. Dice, mamma, non sei libero? Sì, sono libero. Ma la mia libertà è condivisa con mia moglie. E la mia libertà non deve essere a discapito suo, ma deve essere concorde, deve essere unita a lei. È questo che, ascoltatemi bene, è questo che può sembrare un limite, è una benedizione, perché la libertà si raddoppia perché viene condivisa. È la stessa cosa di quando tu condividi una gioia. Non si raddoppia. Oh, non ho capito. E quando condividi la libertà è la stessa cosa. Si raddoppia. Forse dovrei rinunciare a qualcosa, ma il fatto che la condividi si raddoppia. Quindi quello è stato per me un momento cruciale. La stessa crucialità noi la dobbiamo ritrovare in questo vi è sorto dunque. Vi è sorto dunque. Dei sinonimi del verbo esortare: incitare, spingere, sollecitare, stimolare, consigliare, suggerire, ammonire, raccomandare, indurre, spronare, pungolare. La lingua italiana è bellissima. Tutto questo è per vi esorto dunque. L'Apostolo Paolo sta dicendo, mo tocca a te, mo tocca a voi. Visto tutto quello che abbiamo visto finora, fino al capitolo 12, adesso tocca a voi. Capite? Questo è il primo punto essenziale che noi dobbiamo capire. Perché se non capiamo questo punto che io vi sto per condividere, è inutile. Sia tutto quello che abbiamo detto prima, che quello che andremo a dire poco, a dire dopo. Quindi il punto essenziale è che tocca a te, che tocca a me. Non tocca a un altro, tocca a te e tocca a me. Ci sono delle cose che noi non possiamo fare e che Gesù neanche ce le chiede. Per esempio, riscattarci dal peccato. Noi non lo possiamo fare. Noi non possiamo dire pago il prezzo del mio peccato, come posso scontarlo? Non lo puoi fare. Perché? Perché era il prezzo più alto, era la vita di Gesù. E l'ha già fatto Lui e tu non devi fare più niente. C'è quello che noi non possiamo guadagnare. L'amore di Dio non lo puoi guadagnare. Cioè, se fai il bravo, mamma ti porta, ti fa, cioè, questa cultura ha messo dentro di noi l'idea che se noi facciamo i bravi, il Signore ci dà qualcosa. E di conseguenza, se noi non facciamo i bravi, o meglio, se il Signore non ci dà niente, è perché noi non facciamo i bravi. Non è così. Non è così. Tu e io non potremmo fare niente di più per farci amare da Dio. perché ha già pagato il prezzo del suo figlio Gesù. Non puoi comportarti meglio per essere più figlio di Dio e né comportarti peggio per essere meno figlio di Dio. Cioè, mio figlio, i miei figli sono i miei figli, come la moglie, nella buona e nella cattiva sorte. Non possono fare niente di più e niente di meno, sono i miei figli, così tu e io non possiamo guadagnarlo. Ma c'è quello che né tu e né io possiamo fare, c'è quello che noi non possiamo fare, c'è quello che noi non possiamo guadagnare, ma c'è quello che Dio non può fare al posto nostro. E non lo farà. E cioè presentare i nostri corpi in sacrificio vivente e gradito a Dio. Presentare noi stessi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, è qualcosa che ognuno di noi può e deve fare per sé. Non lo farà nessuno al posto tuo. Non pregare: Gesù, aiutami a presentarti a te come sacrificio. Cioè, il Signore dice: ma vedi che lo devi fare tu, non lo devo fare io. Quindi questa è la cosa molto importante. Quando noi diciamo come te, stiamo dicendo questo: offrire i nostri corpi in sacrificio vivente e gradito a Dio. Uno, non sono arrivato neanche a metà, ma è finito il tempo, non vi preoccupate, finisco lo stesso. La parola che è tradotta per presentare nel greco è paristemi. E paristemi è bellissimo, quando io l'ho scoperto, significa cedere. Cedere la proprietà, cedere l'autorità, cedere qualcosa. Io cedo, cedo, perché do. Quando dice presentare i vostri corpi a Dio, lui sta dicendo cedere i vostri corpi a Dio affinché Lui sia il Signore, come tante volte noi preghiamo. C'è una sola ragione per la quale noi possiamo essere giustamente spinti a farlo, e cioè la misericordia di Dio. La misericordia di Dio. Io voglio brevemente illustrarvi in questi 2 minuti e mezzo due motivi che noi adottiamo per presentarci a Dio, che non sono quelli che descrive Paolo, cioè la sua misericordia. E li ha illustrati Gesù in una storia che ha raccontato riguardo a un figlio che se n'era andato da suo padre. E proprio in Luca, al capitolo 15, il versetto 11, è scritto: un uomo aveva 2 figli, il più giovane disse al padre: padre, dammi la mia parte che mi spetta. E questo figlio quindi si presenta al padre: presentate i vostri corpi. Questo figlio si presenta al padre, ma con una motivazione dubbia. Si vuol far dare tutto quello che sarebbe stato suo, ma che non era ancora suo, perché il padre era ancora vivo. Dice: no papà, io lo voglio mo lo voglio. E questo illustra quando noi andiamo a Dio per ottenere quello che ci serve, la risposta ai nostri bisogni, la risoluzione al problema che stiamo vivendo, la malattia che stiamo affrontando. Quando noi andiamo a Dio per questa ragione, stiamo come a questo figlio di me: Gesù, dammi quel che mi devi dare, che mo mi serve, più o meno inconsciamente. Ma sapete la conseguenza di comportarsi così qual è? È che, ottenuto quello richiesto, salutiamo il padre con un ciaone e ce ne andiamo, esattamente come ha fatto questo figlio. Il figlio ha avuto quel che desiderava: me, papà, tutto buono. Se noi andiamo a Dio con questa motivazione, la conseguenza sarà lo stesso. Quando abbiamo soddisfatto la nostra urgenza, lo salutiamo, dice: Signore, Ci vediamo alla prossima. Sempre nella stessa storia, più in là, è scritto quello che è successo all'altro fratello. In effetti qua è il padre che si è presentato dal figlio, perché era fuori che si era offeso perché il padre aveva perdonato questo figlio che l'aveva salutato. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare a fare la festa che aveva organizzato. Ma egli disse a suo padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non è mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. L'atteggiamento di questo figlio denuncia un altro tipo di relazione. Questo era in una relazione con il padre, non come di padre, ma come di un datore di lavoro. E lui si sentiva un operaio sfruttato e sottovalutato. Gli ha detto: io ho fatto tutto quello che mi hai detto di fare e tu non mi hai dato niente. Né lui voleva bene al padre, perché era suo padre, c'era quel timore perché era il padrone. E noi possiamo in qualche modo avere anche lo stesso tipo di relazione con il Signore. E questo fratello non poteva relazionarsi col padre, perché nella testa sua un padre può perdonare, ma un padrone no. E siccome lui vedeva il padre come un padrone, non accettava il perdono che il padre aveva dato. La conseguenza di avere la nostra relazione con il Signore come una specie di dovere, come una specie di obbligo. Dice: se no non ho la vita eterna, stai scherzando? Cioè, è meglio che mi sto, almeno ho la vita eterna. Quando noi abbiamo questi sentimenti nel nostro cuore, la conseguenza di questo tipo di relazione è amarezza, è rigetto. Perché? Perché questo figlio qua, pur avendo obbedito in tutto al padre, non lo aveva gustato come padre. E tu puoi obbedire e puoi fare tutto per il Signore e non gustarlo come padre. È terribile, è tremendo. Per questo Paolo ha scritto: vi esorto dunque per la misericordia di Dio. Ma voi siete curiosi di che cos'è la misericordia, è vero? La prossima volta vi assicuro che ve la illustro e ve la spiego. Però, per tirare le somme, senti rivolto a te questo: vi esorto dunque. Fai parte di quelle persone che hanno detto: sì Signore, io ti voglio. O ti senti ancora escluso, dici: no, non è a me. Pensaci, che tipo di relazione stai vivendo con il Signore? Perché se tu stai vivendo una relazione diversa da quella che viene innescata dalla misericordia di Dio, come te non è cosa. Come te non lo riuscirai a fare, perché la motivazione è sbagliata. Perché avrai una relazione con Dio o frustrata dai bisogni o frustrata dal timore e dalla paura. E Dio non potrà darti quello che ti vuol dare per permetterti di realizzare, di essere per Lui un sacrificio gradito. Un sacrificio gradito. Noi molte volte ci fermiamo a sacrificio. Dio vuole un sacrificio gradito. E anche questo lo vediamo un'altra volta. Vogliamo alzarci in piedi per cortesia? Vorrei pregare. Signore Gesù, io ti voglio ringraziare per la tua parola. Gesù, forse questa mattina so più le domande che le risposte. Non fa niente, perché tu continuerai a parlare al cuore nostro e tu continuerai a rivelare la tua volontà, il tuo amore per noi, la grazia della tua salvezza. Grazie Gesù, io voglio benedire questa parola nel cuore mio e nel cuore di ognuno di noi, affinché porti il frutto per la quale tu l'hai mandata. Amen.